Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Tredicesima puntata. Mi ero fatto una bella ronfata cinebrivido, fratelli, senza nemmeno un sogno. E il mattino era chiaro e tipo smerigliato, e da sotto veniva una piacevolissima sniffa di roba fritta. Mi ci volle un po' per raccapezzarmi di dov'ero, come succede, ma poi ricordai e mi sentii come caldo e protetto. Ma mentre me ne stavo dentro il letto, aspettando che lui mi chiamasse a colazione, mi venne in mente che avrei dovuto conoscere la targa di questo Martino così gentile e protettore tipo mamma. Così pistonai un po' a patte nude in cerca di Arancia Meccanica, che certo doveva averci su la targa sua, dato che lui era l'autore. Nella mia stanza non c'era che il letto e una sedia e una lampada. Così pistonai nella stanza accanto, che era la camera di questo Martino, e lì c'era la moglie sul muro. Un tamagno blow up. E così mi venne un piccolo poco di nausea per il ricordo. Ma c'erano anche due o tre scaffali di libri, e c'era anche, come immaginavo, una copia di Arancia Meccanica. E dietro, sulla costa, c'era la targa dell'autore. F. Alexander. Zio buono, pensai, è un Alex pure lui. Mi misi a sfogliare il libro, così com'ero, in pigiama e a patte nude, dato che non avevo neanche una riga di freddo per via che il cottage era tutto bello caldo, ma non zeccai tanto bene di cosa parlasse. Era scritto in uno stile tipo scardinato, tutto pieno di A e di O e di quelle sguanate, ma il succo di tutta la faccenda sarebbe stato che ai nostri giorni i Martini venivano trasformati in macchine, ma che invece tutti, io e voi e il baciami le bacche, avrebbero dovuto fare una crescita naturale come i frutti. F. Alexander pensava, pare, che tutti noi cresciamo su quello che lui chiamava l'albero del mondo nell'orto del mondo che zio Dio aveva seminato e che stavamo lì perché zio Dio aveva bisogno di noi per calmare la sua sete d'amore o una sguanata del genere. A me tutta questa roba mica mi piaceva tanto, fratelli miei, e mi chiedevo se per caso questo F. Alexander non si fosse del tutto scardinato da quando sua moglie aveva sbaraccato. Ma poi lui mi chiamò da sotto con una ciangotta tipo Martino Sano, piena di gioia e amore tutta quella sguana. Così il vostro umile narratore scese le scale e andò in cucina. «Hai dormito un bel po', disse lui, mettendo in tavola le uova bollite e tirando fuori un toast dalla griglia. Sono quasi le 10. Io ho lavorato, invece. Scrive un altro libro, signore?» dissi io. «No, no, non in questo momento», disse. E ci mettemmo a tavola comodi e someschi davanti alle uova e ai toast. Gnam, gnam, crack, crack. E c'erano anche dei tamagni tazzoni di cia al latte. «No, ho parlato al telefono con un mucchio di gente». «Credevo che non avesse il telefono», dissi, scucchiaiando l'uovo e senza badare a quel che dicevo. «Perché?» disse, tutto allerta come un animale guizzo con il cucchiaino sospeso. «Perché credevi che non avessi il telefono?» «Ah, niente», dissi, «così». E mi chiedevo, fratelli, quanto ricordasse della prima parte di quella cupa lontana, quando bussai alla porta con la vecchia storia del dottore e lei disse «niente telefono». Lui mi l'occhiò fisso e per bene, ma poi ritornò a succhiare il coccovetto tutto allegro e gentile. Disse, masticando, «Sì, ho telefonato a diverse persone che potrebbero interessarsi al tuo caso. Puoi essere un'arma molto potente, capisci, per impedire che questo pessimo governo sia rieletto alle prossime elezioni. Il maggior vanto del governo, capisci, è la maniera in cui si è occupato della delinquenza in questi ultimi mesi». Mi l'occhiò di nuovo fisso da sopra il suo uovo e di nuovo io mi domandai se indovinava la parte che avevo avuto nella sua 6 giorni. Ma disse, «reclutando dei teppisti e dei giovinastri violenti nella polizia, progettando debilitanti tecniche di condizionamento che privano l'individuo del libero arbitrio. Tutte queste parolone, fratelli, e uno sguardo tipo scardinato nei fari. È già accaduto in altri paesi», disse. «Siamo sul filo del rasoio. Prima che ce ne rendiamo conto saremo in pieno totalitarismo». «Dio, Dio, Dio», pensavo ingollando e sgranocchiando, dissi. «Ma io come c'entro, signore?» «Tu», disse, sempre con quel suo sguardo scardinato, «sei la vivente testimonianza di questi diabolici progetti. La gente della strada deve sapere, deve capire». Si alzò e prese a camminare su e giù per la cucina, dall'acquaio alla credenza, dicendo altisuono: «Cosa direbbero se i loro figli diventassero quello che tu, povera vittima, sei diventato? E adesso non sarà il governo stesso a decidere ciò che è e ciò che non è reato e a pompar via vita e coraggio e volontà da chiunque possa dispiacergli?» Si calmò un poco, ma non tornò all'uovo. «Stamani ho scritto un articolo», disse. «Mentre tu dormivi, uscirà tra un giorno o due, insieme a quella tua foto con quell'aria infelice. Lo firmerai tu, povero ragazzo. È una testimonianza di quello che ti hanno fatto». Io dissi: «E cosa ne ricava, signore? Voglio dire, oltre alla bella Maria per l'articolo, come lo chiama lei, voglio dire, e scusi se glielo chiedo, perché si scalda tanto per il governo?» Lui afferrò lo spigolo del tavolo e disse, digrignando gli zughi che erano molto saloppi e tutti macchiati di cancerfumo: «Qualcuno deve pur lottare. Abbiamo una grande tradizione di libertà da difendere. Io non appartengo a nessun partito. Quando vedo l'infamia cerco di combatterla. I partiti non significano nulla. La tradizione di libertà è tutto. Oh, certo, la gente comune non se ne preoccupa. Sono pronti a vendere la libertà per una vita più tranquilla. È per questo che devono essere pungolati. Pungolati!» E a questo punto, fratelli, prese una forchetta e cercò di ficcarla due o tre volte nel muro finché si piegò tutta. Poi la buttò per terra. Disse, con molta gentilezza: «Mangia, mangia, povero ragazzo, povera vittima del mondo moderno». E io lo chiai molto chiaramente che non aveva più il planetario a posto. «Mangia, mangia, mangia anche il mio uovo». Ma io dissi: «E io che ci ricavo? Potrò guarire dal mio stato? Potrò snicchiare di nuovo la vecchia nonna senza vomitare? Potrò avere ancora una 6 giorni normale? Cosa ne sarà di me, signore?» Lui mi guardò, fratelli, come se a quello non ci avesse ancora pensato e come se, comunque, non avesse nessuna importanza in confronto alla libertà e tutta quella sguana, e anzi pareva sorpreso di quello che avevo detto, come se fossi un grande egoista, tipo a voler qualcosa anche per me. Poi disse: «Oh, tu sei una testimonianza vivente, come ho detto. Finisci di far colazione e poi vieni a vedere quello che ho scritto, perché apparirà sulla Weekly Trumpet col tuo nome, povera vittima». Beh, fratelli, quello che aveva scritto era un pezzo lunghissimo e molto lacrimogeno, e mentre lo leggevo sentivo molta compassione per quel povero malcico che sprolava delle sue sofferenze e raccontava come il governo gli avesse pompato via tutta la volontà e diceva che stava a tutta la grega di non permettere a un governo così marcio e perverso di governare ancora. E poi naturalmente mi resi conto che il povero malcico sofferente altri non era che il V.U.N. «Benissimo», dissi. «Proprio cinebrivido. Bene scrivesti, o signore». Allora lui mi guardò fisso e disse: «Cosa?» Come se non mi avesse mai snicchiato prima. «Oh», dissi, «questo lo chiamiamo il gergo moschetto. Tutti i teenagers l'adoperano, signore». Così lui pistonò in cucina a lavare i piatti, lasciandomi lì in pigiama e toffole ad aspettare che mi capitasse quello che mi doveva capitare, perché tanto di progetti miei non ne avevo, oh fratelli. Mentre il grande F. Alexander rigovernava, ci fu un dilin dilin alla porta. «Ah!» scricciò lui uscendo dalla cucina e asciugandosi le granfie. «Sono già qui. Vado ad aprire». Così nell'ingresso ci fu un sacco di bla bla bla e di salve e di che tempaccio e di come va la vita. Poi pistonarono tutti nella stanza col caminetto e i libri e l'articolo su come avevo sofferto e fecero «Ah!» quando mi locchiarono. Erano in tre. E F. Alex mi disse le loro targhe. Z. Dolin era un martino tutto sfumacchiante e catarroso, che tossiva sempre con un mozzicone di cancerosa infilato nel truglio, spargendosi la cenere sulle palandre e poi spolverandosi con granfie impazienti. Era un poldo grassotto e bassotto con un paio di traveghie grosse e spesse. Poi c'era Coso Cosino Rubinstein, un martino molto alto e cortese con una ciangotta da gran signore, molto bigio e con una barba tipo intellettuale. E il terzo era un certo D.B. da Silva, molto guizzo di movimenti e con una forte sniffa di profumo. Mi dettero tutti una guardata cinebrivido e ciò che l'occhiarono parve riempirli di gioia. Z. Dobin disse: «Bene, bene, questo ragazzo può essere uno splendido argomento. Sarebbe meglio, naturalmente, che avesse un'aria ancora più malatticcia e robottesca. Tutto per la causa, ma troveremo certamente un modo. Quella faccenda del robottesco non mi piacque per niente, fratelli, e così dissi: «Ma che succede, bimbo? Qual disegno tu nutri per il piccolo Soma?» E allora F. Alexander fece subito: «Strano, strano. Questa voce e questo modo di parlare mi fanno impressione. Di sicuro ci siamo già incontrati in qualche posto». E s'accigliò tutto, tipo meditabondo. «Dovevo starci più attento, o fratelli miei». D.B. da Silva disse: «Comizi soprattutto. Esibirti ai comizi ci sarà di grande aiuto. E naturalmente la stampa se ne interesserà. Una vita distrutta è proprio l'approccio che ci vuole. Dobbiamo infiammare il cuore di tutti». Mise in mostra tutti i suoi 30 e passa zughi che sembravano bianchissimi per il contrasto con quella sua biffa così scura, dato che aveva l'aria di essere uno straniero. Io dissi: «Nessuno vuol dirmi cosa ricavo io da tutto questo? Torturato in prigione, sbattuto fuori di casa dai miei stessi genitori e da quel loro lurido prepotente inquilino, picchiato da un branco di vecchi e mezzo ammazzato dai cerini, cosa accadrà di me?» Il Martino Rubinstein saltò su a dire: «Vedrai, ragazzo mio, che il partito saprà esserti riconoscente. Vedrai. Alla fine ci sarà una bella sorpresina per te. Aspetta e vedrai». «Io chiedo una trucca sola», scricciai, «ed è di tornare sano e normale come ai bigi tempi e potermi divertire ancora un piccolo poco con dei Soma veri e non con quelli che si dicono Soma ma sono dei traditori. Lo potete fare? Eh? È questo ciò che voglio che mi dovete dire». Tossì questo Zeta Dolin. «Un martire per la causa della libertà», disse. «Il tuo compito è questo e non devi dimenticarlo. E nel frattempo noi avremo cura di te». E si mise ad accarezzarmi la granfia sinistra come se io fossi un idiota, con un sorriso da scardinato. Io scricciai: «Piantatela di trattarmi come una cosa da usare e basta. Non sono mica un idiota da menare per il naso, stupidi bugaroni che non siete altro. Gli sgarroni ordinari sono stupidi, ma io non sono ordinario e non sono bamba, zeccato?» «Bamba», fece F. Alexander come pensieroso. «Bamba. Questo era il nome di qualcuno. Bamba. Eh?» dissi io. «Che c'entra Bamba? Cosa ne sa lei di Bamba?» E poi dissi: «Oh, zio, ci aiuti». Non mi piaceva lo sguardo nei suoi fari. Andai alla porta con l'intenzione di salire a prendermi le palandre e poi pistonarmene via. «Stavo quasi per crederci», disse F. Alexander, mettendo in mostra gli zughi macchiati coi fari matti. «Ma cose simili non possono accadere. Perché Cristo, se fosse lui, lo ammazzerei. Lo farei a pezzi, per Dio, a pezzi!» «Via, via», disse D.B. da Silva, battendogli sul petto per calmarlo come se fosse un cagnolino. «Il passato è passato. Si trattava di tutt'altra gente. Noi dobbiamo aiutare questa povera vittima. Ora il nostro dovere è di pensare al futuro e alla causa». «Vado a prendere le mie palandre», dissi ai piedi delle scale. «Voglio dire i miei vestiti, e poi me ne pistono via tutto solicello. Vi ringrazio tutti di cuore, ma io ho la mia 6 giorni da vivere, perché, fratelli, volevo uscire di lì più guizzo che potevo». Ma Zeta Dolin disse: «Ah no, ora ti abbiamo qui, amico caro, e non ti lasceremo andare. Devi venire con noi. Andrà tutto benissimo, vedrai». E mi venne vicino come per acchiapparmi di nuovo la granfia. Allora, fratelli, pensai di mettermi a picchiare, ma a pensarci mi sentii sul punto di svenire o di vomitare, così non mi mossi. E poi vidi questa cosa tipo follia nei fari di F. Alexander e dissi: «Come volete voi. Sono nelle vostre granfie. Basta che cominciamo subito e che presto sia finita, fratelli». Perché ora mi premeva uscire da quel sosto chiamato casa mia il più in fretta possibile. Quello sguardo nei fari di F. Alexander non mi piaceva neanche un piccolo poco. «Bene», disse questo Rubinstein, «vestiti e andiamo». «Bamba, bamba, bamba», continuava a dire F. Alexander tipo mormorio. «Cosa o chi era questo Bamba?» Io pistonai di sopra guizzo guizzo e mi vestii in 2 secondi e mezzo esatti d'orologio. Poi uscii con questi tre, salii in un'auto con Rubinstein da una parte e Zeta Dolin che tossiva dall'altra e D.B. che guidava, e tornai in città e mi trovai davanti a un flat block non molto distante da quello che una volta era stata casa mia. «Vieni, ragazzo!» disse Zeta Dolin tossendo finché il mozzicone di cancerosa che teneva nel truglio sembrò una piccola fornace. «È qui che ti installerai!» Così pistonammo dentro. E sul muro dell'atrio c'era un'altra di quelle dignità del lavoro. E salimmo in ascensore. Ed entrammo nel flat che era come tutti i flat di tutti i flat blocks della città. Mignissimo, con due camere da letto e un pranzo soggiorno studio il cui tavolo era ricoperto da libri, carte, inchiostro e bottiglini e tutta quella sguana. «Ecco la tua nuova casa», disse D.B. da Silva. «Puoi sistemarti qui. La roba da mangiare è nella dispensa e i pigiami sono in uno di quei cassetti. Riposa, riposa, spirito turbato». «Eh?» dissi, non zeccando di cosa sprolasse. «Bene», disse Rubinstein con la sua bigia ciangotta. «Ora ti lasciamo perché noi abbiamo da fare. Ci vedremo più tardi. Qui puoi fare quello che vuoi». «Una cosa», tossì Zeta Dolin, «tu hai visto ciò che si agitava nella memoria torturata del nostro amico F. Alexander. Era per caso... voglio dire, non sei mica stato tu che... sai bene cosa voglio dire. Poi non ne parleremo più». «Ho pagato», dissi. «Zio sa se ho pagato per quel che ho fatto. Ho pagato non solo per me stesso, ma anche per quei bugaroni che si dicevano miei soma». Mi sentii violento e così mi venne un po' di nausea. «Ora mi stenderò un pochino sul letto», dissi. «Ho passato dei momenti terribili». «Puoi dirlo», disse D.B. da Silva mostrando tutti i suoi 30 zughi. «Sì, bravo, mettiti a letto». Così mi lasciarono, fratelli. Se ne pistonarono via per i fatti loro, che dovevano essere cose di politica e quel genere di sguanate, e io mi buttai sul letto tutto solicello e con un gran silenzio intorno. Me ne stavo sdraiato là, senza savoghe, con la cravatta allentata, ed ero ancora tutto scombussolato e mi chiedevo che genere di 6 giorni mi aspettasse. E attraverso il planetario mi passavano ogni sorta di figure, tipo visioni di tutti i Martini che avevo conosciuto a scuola e alla Prista, e di tutte le trucche che mi erano capitate, e pensavo che non c'era un solo poldo di cui potersi fidare in tutto il tamagno mondo. E poi credo che mi appisolai, fratelli. Mi svegliai che c'era una musica al di là della parete, molto altisuono, e doveva essere stata quella a trascinarmi fuori dal sonno. Era una sinfonia che conoscevo bene, ma che non snicchiavo da parecchi anni, chiamata la Sinfonia numero 3 di quel Martino danese Otto Skadelig, un pezzo altisuono e violentissimo, specie nel primo movimento, che era proprio quello che stavano suonando adesso. Per 2 secondi snicchiai con interesse e gioia, ma poi mi vennero subito addosso il dolore e la nausea e cominciai a gemere fin nelle busecchie. E così io, che avevo tanto amato la musica, ora stavo strisciando fuori dal letto facendo «oh, oh, oh» e poi «bang, bang, bang» nel muro scricciando «basta, basta, spegnetelo!». Ma la musica continuò e mi sembrava perfino più forte di prima. Così mi buttai sulla parete finché le nocche delle dita mi si spellarono e mi diventarono rosse di salsa, scricciando e scricciando, ma la musica non si fermò. Allora pensai che dovevo assolutamente andarmene di lì. Così uscii barcollando dalla mia cameretta e pistonai guizzo alla porta d'ingresso, ma questa era stata chiusa a chiave dal di fuori. E intanto la musica diventava sempre più altisuono, come se qualcuno volesse deliberatamente torturarmi, oh fratelli miei. Così mi ficcai i mignoli negli snicchi, ben dentro, ma i tromboni e i tamburi mi trapassavano lo stesso. Così scricciai di nuovo che la smettessero e presi il muro a martellate, ma tutto continuò come prima. «Oh, che posso fare?» dissi belando. «Oh, zio del cielo, aiutami!» Andavo su e giù per tutto il flat, pieno di nausea e di dolore, cercando di chiudere fuori la musica e lamentandomi con le viscere che mi si torcevano, e poi in cima alla pila di libri e carte e tutta quella sguana che c'era sul tavolo del soggiorno, locchiai quello che dovevo fare e quello che avrei voluto fare se quei vecchi della bibliopubblica e poi Bamba e Billy Boy travestiti da Cerini non mi avessero fermato, e cioè farmi fuori, sbaraccare, battermela per sempre da questo mondo crudele e malvagio. Ciò che l'occhiai fu la mutata morte sulla copertina di un opuscolo, anche se si trattava soltanto di morte al governo. E tipo fosse il destino, c'era un altro migno libriccino che aveva una finestra aperta sulla copertina e diceva: «Aprite la finestra all'aria fresca, a idee nuove, a un nuovo modo di vivere». E così seppi che era una maniera di dirmi di farla finita buttandomi di sotto. Un attimo di dolore, forse, e poi dormire per sempre e per sempre. La musica stava ancora scrosciando tutta ottoni e tamburi, con i violini a chilometri al di sopra. La finestra della camera dove mi ero disteso era aperta. Pistonai fin lì, e l'occhiai che le auto e i bus e i martini che passavano di sotto erano a una bella distanza. Scricciai a tutto il mondo: «Addio! Addio! Che zio vi perdoni questa vita distrutta!» Poi salii sul davanzale, mentre la musica imperversava la mia sinistra, chiusi i fari e sentii il vento freddo sulla biffa. Poi saltai. Marco Cavalcoli ha letto Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.